La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qua, puntuali con la nostra ora di cinema settimanale La Rosa Purpurea, Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti, settimana dominata dal Festival di Cannes che sta per emettere i suoi verdetti, ma soprattutto nella prima parte dominata anche nelle sale italiane da un film italiano in concorso con grande penetrazione, con grande prestigio al Festival di Cannes, ovvero La grande bellezza di Paolo Sorrentino, uscito nelle sale italiane il giorno dopo la sua grande soirée sulla Croisette. Molti di voi l'hanno anche già visto, molti di voi si apprestano ad andarlo a vedere, molti ci hanno scritto sulla nostra pagina Facebook dividendosi, come è successo anche a livello di critica, anche se in generale, non vogliamo anticipare molto, ma in generale il giudizio su questo film è stato molto positivo. E allora ne parleremo fra poco, prima però andiamo all'interno dei contenuti di questa puntata con i nostri titoli di testa. Dalla Croisette alle sale italiane. Buona partenza al box office per La grande bellezza, il nuovo film di Paolo Sorrentino presentato in concorso a Cannes. Ce lo presentano al Rosa Purpurea lo sceneggiatore Umberto Contarello e l'attrice Galatea Ranzi. È ancora re del box office la saga di Fast and Furious, giunta al sesto capitolo, che riunisce il meglio dei precedenti cast, da Vin Diesel a Michelle Rodriguez, passando per Dwayne Johnson. Convince la regia di Justin Lin. Un padre ossessionato dalla ricerca di microscopici esseri umani, una figlia miniaturizzata e spedita fra i piccoli abitanti del bosco, nel bel mezzo di una feroce battaglia tra il bene e il male. È la trama di Epic, il nuovo film d'animazione dello studio Blue Sky, da cui è nata la saga dell'era glaciale. Cesare Zavattini, uno dei padri del neorealismo, sceneggiatore di Chouchat e Ladri di biciclette, ma anche pittore e collezionista. Ne parliamo alla Rosa Purpurea in occasione della mostra A tutti i pittori ho chiesto l'autoritratto, alla Pinacoteca di Brera, e di una rassegna allo Spazio Oberdan di Milano. Allora cominciamo con leggerezza, con l'animazione, con un racconto, un nuovo racconto di animazione che arriva nei cinema italiani, si intitola Epic, l'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Mio padre mi raccontava delle storie, scusami, di un mondo nascosto, dove guerrieri coraggiosi vegliano su di noi e ci proteggono. Non è magnifico? Diceva sempre... Solo perché non hai visto qualcosa, non vuol dire che non esista. Una filosofia di vita che non fa breccia fra la gente. Il padre di Mary Catherine è considerato uno scienziato pazzo e anche per lei, tornata 17enne a vivere con lui, ricucire i rapporti non è semplice. Ancor più difficile credere alla sua teoria, che si rivelerà invece vera. Sarà MK, così si fa chiamare la ragazza, a confermarlo, grazie all'incontro con il popolo che vive nella foresta. Che succede, piccoletta? Una chiocciola parlante. A dire il vero, sono una lumaca. Niente guscio qui, pupa. Ma voi chi siete? Siamo i Leafmen, protettori della foresta. Papà aveva ragione. Non sono gli altri a essere giganti, e lei è diventata piccola quando la regina Tara, cadendo ferita a morte, le ha consegnato il bocciolo che salverà la foresta. Perché il bosco e la natura restino in equilibrio, deve schiudersi al chiaro di luna. Lo proteggono i Leafmen, letteralmente uomini foglia, cavalieri su colibrì che affrontano i bogani, insettacci mostruosi con pellicce di topo sulle spalle che vogliono eliminare tutte le forme di vita. Ovviamente non vi raccontiamo l'esito della battaglia, ma possiamo dirvi che il papà si renderà utile come un giovane minuscolo cavaliere. Favola ecologica, ma non solo, questo Epic, il mondo segreto, che vede il ritorno alla regia di Chris Wedge, creatore della saga dell'era glaciale, con doppiatori in originale come Beyoncé e Christoph Waltz, Maria Grazia Cucinotta e Lillo e Greg in italiano. Il film trae spunto da un libro di William Joyce, ma non è difficile vedere altri riferimenti, da Alice nel Paese delle Meraviglie ai Minimay di Besson e tante citazioni, Avatar compreso. Citazioni, non copiature, e proprio per questo la storia di formazione e crescita funziona bene e la meraviglia della natura è resa benissimo tecnicamente. Anche il 3D non è di troppo. Evidente l'insegnamento, bisogna cambiare prospettiva per capire le cose e uniti si funziona meglio o, secondo il motto dei Leafmen, molte foglie, un solo albero. La rosa purpurea. Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani. E ci sono riuscito. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. E allora, la filosofia di Jep Gambardella, giornalista di costume, critico teatrale, scrittore, opinionista, tuttologo, personaggio come ce ne sono tanti nella società italiana, e ce ne sono stati tanti anche in passato, che ha le sembianze di Toni Servillo e che è il protagonista centrale, il perno attorno a cui ruota La grande bellezza di Paolo Sorrentino, nei cinema italiani da martedì scorso, dopo il passaggio in concorso al Festival di Cannes. Film applaudito da 10 minuti di entusiastici applausi alla Salle Lumière, grande entusiasmo, critica abbastanza unanime per Sorrentino, qualche voce fuori dal coro, qualche dubbio assolutamente lecito, legittimo. Il pubblico ne sta parlando, lo sta vedendo. Un film però sicuramente importante, un film grande per il cinema italiano, grande nelle ambizioni, grande nella realizzazione. Dicevamo appunto, Jep Gambardella è uno scrittore che vive sostanzialmente di rendita dopo un suo solo libro giovanile che si chiamava L'apparato umano, che tra l'altro, detto per inciso, poteva anche essere il titolo del film. E dopo quel successo Jep Gambardella ha preso, l'avete sentita la dichiarazione di intenti, a frequentare i salotti romani, a diventare il re dei mondani, ad avere il potere di far fallire le feste, che era un po' un potere quasi metafisico, e le feste le organizza, continua a organizzarle sulla terrazza che si affaccia sul Colosseo, la terrazza di casa sua, nella quale invita questo sottogenere tipico non solo di Roma, ma soprattutto di quel tipo, di quella Roma raccontata da Sorrentino nel film, di attrici che non hanno più avuto fortuna, di donne scrittrici che hanno fatto fortuna grazie alla politica, di uomini di basso profilo morale e di alti intenti sessuali, insomma, un microcosmo, un vero e proprio microcosmo che Sorrentino racconta guardandolo con gli occhi distaccati, anche forse anche disillusi proprio del personaggio di Jep Gambardella, che ha compiuto, sta compiendo, compie 65 anni, ed è il momento un po' per tirare le somme di una vita, cercare di capire la città nella quale è cresciuto, nella quale è diventato se stesso, non sappiamo se qualcuno, ma sicuramente se stesso, cercandone le chiavi di lettura in questi personaggi un po' da baraccone, a volte molto misteriosi, dentro le stanze di palazzi austeri, mai frequentati, una sorta di vero e proprio museo decadente a cielo aperto. È un film, questo La grande bellezza, che non racconta tanto una storia quanto dipinge un affresco, quanto mostra una situazione, mostra una condizione più che altro, ed è un film che poggia molto sull'acume di questo personaggio interpretato da Toni Servillo, che con la sua tagliente ironia, con il suo disincanto guida un pochino le fila di questi personaggi indecisi che si affidano a lui per capire meglio anche la vita che stanno facendo essi stessi. Tra questi personaggi tanti attori legati alla commedia italiana, come Carlo Buccirosso, come Sabrina Ferilli, come Carlo Verdone. È proprio con Sabrina Ferilli che a un certo punto il personaggio di Toni Servillo avrà un mezzo innamoramento, ma capiremo che questo servirà solo a risvegliare qualcosa che nel passato è stato la causa scatenante di quello che Jep Gambardella è oggi. Una causa scatenante, un amore non risolto, un amore non vissuto fino in pieno, giovanile, che si è sedimentato ed è stato un buco che si è divorato, forse anche l'anima del personaggio. Un altro per mia intervista, mamma mia, ormai siamo un popolo di intervistati. Ma non li senti, come dico sempre a chi? Lascia stare. Ma poi sii sincero, ma chi se lo compra un libro che si intitola Visione e Revisioni, La Galassia di Jep Gambardella? Ma è un titolo serio. E in questo paese, purtroppo, per farsi prendere sul serio, bisogna prendersi sul serio, Jep. Roma, ma che gli raccontiamo? Io ho scritto un solo romanzo 40 anni fa che non si trova neppure nelle librerie. Ma che cazzo dici? Che era un capolavoro assoluto all'apparato umano. Torneremo fra pochissimo a parlare ancora della grande bellezza con le interviste, con i protagonisti. Adesso prima giochiamo, perché abbiamo la nostra prima parentesi con il nostro game. Dovete indovinare questo film che vi proponiamo attraverso tre tracce misteriose e dirci di che film si tratta. Abbiamo mai discusso di quattrini noi due? A dire il vero, mai. Quello che decidi tu è andato sempre bene per me, vecchio brontolone. La Rosa Purpura è @radio24.it. Di che film si tratta? Provate a capirlo, a scrivercelo col vostro indirizzo per vincere una copia in Blu-ray di questo film per il sabato e per la domenica. E come sempre, più tardi avremo altre due tracce. Le atmosfere musicali, sonore del film di Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza, cambiano molto. Abbiamo sentito prima dei cori straordinari, angelici. Adesso si va con il tunza tunza di Bob Sinclair con questa vecchia canzone di Raffaella Carrà. Questo ha un senso, ovviamente, anche nel film, che è un film, si è molto speso il nome di Federico Fellini, della Dolce Vita. A me viene in mente anche qualcosa di Roma, se proprio vogliamo stare su Fellini. Si è molto speso qualcosa del taglio onirico di certi film di David Lynch. A mio modo di vedere, dentro La Grande Bellezza c'è molto invece di Paolo Sorrentino, del Paolo Sorrentino migliore, più compatto, e questo lo si deve anche a una sceneggiatura molto accattivante, pur senza avere punti narrativi vincolanti durante il suo percorso. E di questa sceneggiatura dobbiamo dire grazie a Umberto Contarello, che è in collegamento qui con noi alla Rosa Purpurea. Ciao Umberto. Buonasera a tutti. Grazie di essere qui con noi. Dicevamo quindi, no, Fellini, Lynch, si sono dette tante cose anche questa settimana a Cannes. Ormai nel cinema italiano basta far passare una suora e si inneggia Fellini, ma insomma le cose sono un po' diverse, anche se certo il tentativo di raccontare Roma, i suoi vizi, che poi non è solo Roma, insomma, è uno specifico che racconta qualcosa di più, i suoi vizi, dicevamo, queste ambientazioni un po' decadenti, oniriche, è un tentativo fatto da Fellini e anche da altri registi. Beh sì, è una cosa, insomma, il cinema si è sempre interrogato, spesso si è interrogato sul tempo che si sta attraversando, no? E quindi i grandi autori, Paolo è oggettivamente, insomma, ormai un autore di questo tempo, penso che sappia individuare come dire, un punto di vista, un buco della serratura, diciamo così, dal quale un po' vedere, gettare uno sguardo sul tempo, no? Lo fa attraverso molti personaggi, una sorta di tribù, insomma, no? A Roma spesso, io credo che a Milano si abiti e a Roma ci si accampi, come idea di stare al mondo. Al centro di questa tribù è, come un po' un Virgilio e anche come una lente di ingrandimento, c'è però un personaggio. È vero che la sceneggiatura, diciamo, avanza per accumulo, avanza con una certa libertà, perché vorrebbe assomigliare alla libertà della vita e non alle, come si può dire, alle, alle strutture un po' asfittiche delle trame, no? alle gabbie delle trame, assomiglia un po' all'andamento casuale, diciamo così, dell'esistenza. Ecco, invece pare anche che vi piaccia molto, anzi, che abbiate uno sguardo in questo caso verso i personaggi del film piuttosto, non voglio dire cattivo, ma voglio dire però sicuramente molto critico. Ecco, se in altri campi magari c'è l'abbraccio fraterno, materno, paterno al personaggio, qui non mi sembra che, tranne forse Verdone, non ne scampi uno alla vostra mannaia, insomma. Ma guarda, io su questo mondo che brulica attorno al personaggio interpretato magnificamente, peraltro, da Servillo, c'è la bellezza infinita e anche la ferocia, se vuoi, dell'esistenza. Ora, in un meraviglioso documentario geografico sulla savana, nella savana sono belli, sequoie giganti, gli alberi giganteschi, il vuoto, il vento, ma sono immensamente belli, dipende da come si guardano, anche le gazzelle che scappano, i leoni che azzannano, i serpenti che strisciano. Ora, io sono assolutamente convinto, rivedendo il film, che la bellezza stia esattamente in parti uguali in una Roma quasi morta, silenziosa e meravigliosa, e in egual misura in quel muoversi dissennato e che cerca un suo modo di vivere di quei corpi, per esempio, che ballano per un tempo infinito. La bellezza sta dovunque la si voglia vedere, questo è il punto. La vera grande bellezza è la bellezza dello sguardo con cui si guarda, ecco, perché poi nella realtà di fondo non c'è niente, dipende da come la si vede. Ti faccio un'ultima domanda: quanto questo microcosmo che raccontate nel film e che è molto autoreferenziale, quasi nascosto agli occhi della gente comune, come vediamo anche nel finale, ecco, quanto ha contaminato secondo voi, secondo te, la società romana, italiana in generale? Cioè, quanto questo esempio, che doveva essere un po' fine a se stesso, è diventato modus vivendi per una società intera? Quello che così mi sembra è che siamo, diciamo, una comunità delle occasioni perdute, e il personaggio di Tony è un uomo che fa i conti un po' con le occasioni perdute della sua vita. Se c'è una assonanza, diciamo così, fra una vicenda totalmente fantastica, reimmaginata come quella del film, e una, come dire, risonanza con un destino, con un presente più largo di questo paese, è forse questo sentimento di continuare come destino a perdere occasioni, ecco. Grazie allora, Umberto Contarello, sceneggiatore della Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. Grazie a voi. E rimaniamo però ancora al film di Paolo Sorrentino, perché fra gli attori, abbiamo detto, di questo cast corale, di questo film corale che ruota attorno al personaggio di Jep Gambardella, ma che ha tanti controcanti molto diversi, c'è anche quello di Galatea Ranzi, che è in collegamento con noi. Buonasera. Grazie. Galatea, e ben ritrovata qui alla Rosa Purpurea. Grazie, buonasera. Galatea, il tuo personaggio che è mi avvinceva e mi interessava, perché è un personaggio che cerca di porre una resistenza a quello di Jep Gambardella, che è molto fascinoso e molto carismatico, tanto che tutti ci si rapportano con un certo timore reverenziale. Il tuo personaggio, soprattutto in una scena del film, che è quello di una donna che è in preda, diciamo così, a certezze che un dialogo di Jep sgretola. Sì, è verissimo. Ecco, è un personaggio che si costruisce delle certezze anche abbastanza così fittizie e di facciata, come ce ne sono tanti e come a ognuno di noi succede in qualche modo, invece il Jepp la distrugge nel giro di quattro battute. Senti Galatea, raccontami un attimo il clima sul set, inteso in questo senso: è un film che si vede subito grande, è un film, sì, come dire, no, che arriva allo spettatore immediatamente con una potenza, poi che piaccia o non piaccia, ma con una potenza visiva, e il senso di star vedendo, e immagino anche di star facendo, di star girando un film di questa potenza, penso sia pervasivo dal primo minuto. È stato così sul set? Cioè voi ve l'avete avvertita questa cosa? In qualche modo sì, anche appunto il fatto di essere tanti attori a collaborare a questa opera è stato da subito una sensazione molto, molto bella e molto di grande corresponsabilità di ciascuno, ognuno ha ad aggiungere la sua tessera in questo mosaico enorme che Paolo fa. E che adesso il Festival di Cannes faccia il resto, insomma, diciamo sì, così. Sì, sì, sì. Grazie anche a Galatea Ranzi, grazie ancora. Grazie a voi. La Rosa Purpurea. Terza parte della Rosa Purpurea, parliamo fra poco di Fast and Furious 6, ma prima, visto che ne parliamo con Boris Sollazzo, che è ancora posizionato in quel della Crosetta Cannes, e che saluto, ciao Boris! Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Diciamo, visto che tu sei lì, come lasciarsi scappare l'occasione per fare due nomi secchi e fulminanti fra i titoli che si contenderanno la Palma d'Oro di questo festival? Guarda, se me ne chiedi due, io te li dico velocemente. Uno è il favorito, Inside Llewyn Davis, dei fratelli Coen. Veniva dato per favorito già inizialmente, secondo me sono tornati ai livelli degli inizi. Avevano, secondo me, perso dopo l'Oscar un po' il gusto di essere anche ruvidi, difficili, e qui invece trovano una storia meravigliosa, molto folk, sui ruggenti anni 60 che stavano per declinare attraverso un grande perdente di successo che è Dave Van Ronk, che qui diventa Llewyn Davis, e quindi sicuramente i fratelli Coen. Il secondo nome è quello di un outsider da sempre, Abdelatif Kechiche, che ha portato qui un doppio film diviso in due capitoli, La vita d'El, 3 ore di film, ma non te ne accorgi, racconta una storia d'amore struggente, usando anche citazioni pesanti di film come Titanic, Indovina chi viene a cena, una storia d'amore lesbico tra un adolescente e una giovane donna, che scoprono, soprattutto la prima, un amore in cui non conta il genere sessuale, potrebbero essere due donne, due uomini. La forza di Kechiche è raccontare una storia d'amore, indipendentemente da tutto il resto. Ha creato scandalo la scena di sesso molto esplicita di 10 minuti, ma mai gratuita. Potrebbe, se non vince la Palma d'Oro, anche se a mio parere la meriterebbe, potrebbe portare a casa comunque il premio per la migliore interpretazione femminile, perché Lea Seydoux e Adele Exarchopoulos sono davvero straordinarie. Ecco, i nostri due favoriti sono questi. E allora vedremo se fra poche ore ci sarà una conferma da parte della giuria presieduta da Steven Spielberg. Noi però utilizziamo biecamente anche Boris per parlare di un film che con Cannes c'entra assolutamente nulla. Siamo arrivati al sesto capitolo di una saga tutta motori e grandi sgommate come quella di Fast and Furious. Ascoltiamo la clip. Mi serve il tuo aiuto, Dom. La settimana scorsa una banda super organizzata ha sparagliato un intero convoglio militare. Con il loro ultimo colpo hanno fatto un bel salto di qualità. Mi aiuterai a distruggere la banda che lo ha fatto? Perché dovrei, Hobbs? Questa è di una settimana fa. È un giochetto schifoso per confonderti le idee. Letty è morta, Dom. Io devo esserne sicuro. Allora vengo con te. Voi pensate di aver vinto, ma il vostro codice si basa sulla famiglia. Per questo con me perderete sempre. E allora, questo è un po' il clima, che non è tanto diverso da quelli precedenti, però Fast and Furious ogni volta che arriva in sala porta a casa, oltre al suo zoccolo duro di spettatori, anche tutto un flottante di altri seguaci, e insomma è sempre, non dico record in cassi, ma il primo posto in classifica è quasi assicurato. Sarà così anche questa volta, Boris? Ne sono abbastanza sicuro, citando Spring Breakers, che in uno dei suoi momenti meno identificati fa gridare a un personaggio bikini e grossi sederi, questo è il sale della vita, qua direi bicipiti e grossi motori, questo è il sale della vita. Justin Lin, secondo me, ha una capacità di raccontare il cinema d'azione unica, alla follia e alla bravura visiva di portare delle scene che qualsiasi altro, in mano a qualsiasi altro, diventerebbe umorismo involontario. E qui invece ci si diverte perché tutto è portato alla massima velocità, modificato ovviamente perché tutte le macchine che vediamo sono modificate. La cosa sorprendente di Fast and Furious 6 è che dopo, diciamo, un lungo letargo, nel senso che bisogna essere onesti, il primo Fast and Furious fu un film molto potente in tutti i sensi, non solo a livello di cavalli del motore, questo Fast and Furious 6 è anche ben scritto, addirittura si prende la briga di riunire tutta la saga in una continuità narrativa che fino adesso di fatto non c'era stata. Persino Tokyo Drift, che era il terzo capitolo, qui viene citato e incastrato all'interno della saga, e quindi c'è anche un grosso sforzo di scrittura, soprattutto per un film di questo genere. C'è di nuovo Vin Diesel, c'è Dwayne Johnson, c'è Michelle Rodriguez, ci sono tutti gli ingredienti che c'erano nei precedenti Fast and Furious, e quindi gli appassionati non abbiano paura, vedranno scontri, vedranno inseguimenti, vedranno impossibili acrobazie con le macchine. Ma allo stesso tempo, chi ama il cinema d'azione e non necessariamente abbia amato Fast and Furious, a mio parere qui troverà pane per i suoi denti. Io non vorrei esagerare, però Justin Lin, se dovesse continuare così, potrebbe diventare il John McTiernan di questi anni, cioè uno che riesce a fare dell'action un po' arrogante, un po' fracassone, davvero alla grande. Quindi la mia promozione per Fast and Furious 6 è assolutamente piena. E allora, bene, ne godranno quelli che andranno a vederlo, immaginiamo numerosi in questo fine settimana. Grazie Boris, appuntamento fra 7 giorni. Grazie, alla prossima. Seconda traccia del film misterioso di oggi. La lunghezza di un punto, la direzione di un cerchio. È pronto. Il lato di una circonferenza, il centro dello spazio, l'area di un segmento. Sorprendente. Bravissima. La Rosa Purpurea @radio24.it, di che film si tratta, nome, cognome e indirizzo, provate a vincere una copia del Blu-ray per il sabato e per la domenica di questo film, del quale più tardi vi offriremo un'altra traccia. Io lavoro molto, molto, molto per mascherare del lavoro che dovrei fare, cioè più importante, più intimo, più impegnato. Si lavora tanto, delle volte proprio per non fare l'altra cosa, come un alibi, per non fare quell'altra cosa che in fondo costa una maggior fatica. La voce che vi abbiamo fatto sentire è quella di Cesare Zavattini, il grande sceneggiatore, scrittore, è stato anche regista, ma insomma nel cinema lo ricordiamo soprattutto come sceneggiatore dei più grandi capolavori del neorealismo italiano: Sciuscià, Ladri di biciclette, Miracolo a Milano, Umberto D, Bellissima, e potremmo andare avanti con tanti altri film che Zavattini ha scritto, a cui Zavattini ha dato le parole, ha dato i dialoghi. Un uomo di cinema e un uomo di scrittura davvero di una grandezza quasi ingombrante, ma anche un appassionato pittore e un grandissimo appassionato d'arte e collezionista. Proprio di questo aspetto, in questa parte della Rosa Purpurea, quasi come fosse un mondo parallelo, vogliamo darvi uno spaccato di questo personaggio che è possibile vedere a Milano, alla Pinacoteca di Brera, fino all'inizio di settembre. È aperta una piccola mostra che riguarda gli autoritratti, la collezione straordinaria di autoritratti che Zavattini aveva creato nel corso di 40 anni. Per 40 anni Cesare Zavattini chiese un autoritratto ai più grandi pittori del Novecento italiano, e non solo italiano, pensiamo a Diego Rivera, ottenendo un piccolo formato, un autoritratto di piccolo formato, molto liberamente interpretato, formato 6x8, 5x8, insomma sotto i 10 centimetri per intenderci, che appendeva regolarmente dentro la sua casa. Se andate su YouTube e scrivete Zavattini intervista, vedrete che vengono fuori un po' di interviste realizzate a casa sua. Quasi sempre alle spalle ci sono questi quadri che erano diventati appunto 1500 nel corso di 40 anni. Poi difficoltà economiche costrinsero Zavattini a venderli. Fortunatamente negli anni 2000 lo Stato ne ha acquisito un blocco di 150, 152 per la precisione, li ha dati in proprietà alla Pinacoteca di Brera di Milano, che adesso, dopo averli restaurati, li espone tutti insieme, tutti e 152, con nomi davvero altisonanti della pittura italiana del Novecento. è un modo per conoscere meglio anche quest'uomo di cinema, ma come sentiremo dopo, anche con qualche pentimento. Ne parliamo con Marina Gargiulo, che è la curatrice di questa mostra. Zavattini lo conosciamo come sceneggiatore e scrittore, ma in realtà la sua valvola di sfogo, il suo grande amore erano i quadri, la pittura, perché dipingeva tantissimo, incessantemente, come fosse proprio il suo svago, quello che proprio lo faceva respirare dalle fatiche, in fondo anche dei tempi un po', diciamo, stretti alle volte delle produzioni cinematografiche, e il collezionismo, per cui dover vendere la collezione dei minimi, dei quadrucci, come li chiamava lui, fu veramente un dolore, non solo per lui, per tutta la famiglia. E come gli viene l'idea, lui nel 40-41 si trasferisce a Roma, un critico di Milano, Raffaele Carrieri, gli aveva regalato un quadrettino, un bozzetto di Campigli che misurava 5 cm per 6, poi un giorno aveva visto Aligi Sassu dipingere su un pacchetto di sigarette, si fa dare questo pacchetto di sigarette a tutti i costi, insomma un po' viene proprio catturato dal formato piccolo, che è un po' una metafora di quello che è il cinema di Zavattini alla fine, il cinema delle piccole cose, il cinema del quotidiano, della vita, di ciò che avviene nelle case, nelle mura domestiche, nella quotidianità, e il cinema di più democratico, tra virgolette. E un po' per motivi economici, comunque, dicevo, non potendo permettermi una collezione di quadri normali, grandi, mi sono dedicata alla collezione di quadri piccoli proprio perché mi costavano meno. Infatti dagli anni 40 fino alla fine degli anni 70 arriva a raccogliere 1500 quadri. Ecco, e lì in mostra Brera, lo ricordiamo, si entra con il biglietto della Pinacoteca, e poi una volta dentro, in una delle prime sale, appunto, c'è questa enclave che è stata ricavata, con anche le lettere che Zavattini scriveva agli artisti per chiedere appunto i quadri, eccetera, e con anche un bellissimo dipinto di Zavattini che guarda la sua collezione di quadri, molto molto suggestivo. Però lì, insomma, è in un attimo, in un colpo d'occhio, su due lati abbiamo Fontana con una piccola tela tagliata, abbiamo Burri, Rivera, Carrà, Sassu, De Chirico, Pericoli e nomi straordinari, il Novecento dell'arte italiana, e non solo. Mi sembra che lui abbia evitato, forse non se l'è sentita, di chiamare solo una persona, Picasso, è così? È così, non si vergognò a scrivere a Picasso. E scrive ad altri artisti chiedendo: ma secondo voi ma Picasso me li farebbe due quadri? Io vorrei tanto chiedergli, però quando lo incontrai non ebbi il coraggio di domandarglielo, e quindi Picasso rimane fuori dalla collezione. La domanda si pone d'obbligo, diciamo: il futuro di questo incredibile patrimonio resterà in mostra fino a settembre, poi? E poi verrà destinato agli ampliamenti della Pinacoteca di Brera, quando speriamo di averli, diciamo, il prima possibile. Farà parte di tutto quel nucleo di opere che probabilmente saranno destinati al Palazzo Citterio, dove verranno spostate tutte le collezioni del XX secolo della Pinacoteca. E allora approfittatene finché ce n'è la possibilità. Pinacoteca di Brera, a tutti i pittori ho chiesto l'autoritratto, il titolo di questa mostra su Cesare Zavattini. Grazie a Marina Gargiulo, la curatrice. Grazie, arrivederci. Se io rinascessi non farei assolutamente più lo scrittore di cinema, di questo sono sicuro. Tutta la mia esperienza mi dice che non si devono fare dei mestieri zoppi. Il mestiere del cinema non è zoppo, come regista, e che può essere anche contemporaneamente sceneggiatore, sì, meglio ancora, ma è zoppo quando uno fa lo scrittore di cinema. Avete sentito il pentimento di cui vi parlavo prima? Tutto sommato, in tarda età, Zavattini non era più così contento di aver scritto per il cinema, perché non era una cosa che riempiva fino in fondo la sua personalità, cosa che invece, secondo lui, la pittura e l'arte facevano. Proprio in contemporanea a questa mostra Brera, allo Spazio Oberdan di Milano, Porta Venezia, una rassegna con tantissimi film sceneggiati, oppure anche diretti, come La Verità, per esempio, e anche documentari di Cesare Zavattini, dal 31 31 maggio al 30 giugno, praticamente un mese nel quale sarà possibile vedere di tutto e di più di questo straordinario personaggio. Appunto, le abbiamo detti i titoli: da Miracolo a Milano all'Isola di Arturo, dal Cappotto a Bellissima di Visconti, Sette Fratelli Cervi, Sciuscià, Ladri di Biciclette. Ci sarà davvero tutto il cinema del neorealismo italiano lì nelle sue massime espressioni allo Spazio Oberdan. E quindi grande possibilità di conoscere e riscoprire anche aspetti meno noti del personaggio Cesare Zavattini. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, la quarta parte del nostro programma, come sempre dedicata alle visioni domestiche, ai film da vedere in casa, cominciando dalla televisione in chiaro, il digitale terrestre, con le sue offerte. E noi ci facciamo raccontare, come sempre, un paio di proposte, che oggi sono anche qualcosa di più, dai nostri amici del settimanale Film TV. E con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Allora, partiamo da un film che in ambientazione western mette insieme un trittico mica da ridere: Claudia Cardinale, Jack Palance e Burt Lancaster. Stiamo parlando dei I Professionisti. Esattamente, I Professionisti, su Rai Movie alle 21.15 di lunedì 27. All'origine del film c'è il romanzo di Franco Burke, storia di un ricco Yankee che ingaggia quattro avventurieri perché tolgono la moglie dalle mani di un rivoluzionario messicano che l'ha sequestrata. È uno dei western memorabili degli anni 60, è uno dei film più esplicitamente politici di Richard Brooks, che è un autore assolutamente sottostimato di un periodo del cinema americano che si apriva lentamente alla modernità. Brooks riesce a mettere in risalto le potenzialità spettacolari anche di questa vicenda, con protagonisti che si calano nei ruoli in maniera assolutamente straordinaria. Penso appunto a Lancaster, a Lee Marvin e alla Cardinale. E allora l'appuntamento con I Professionisti lunedì 27 maggio su Rai Movie alle 21.15. Non si finisce mai di scoprire Jean-Luc Godard, e allora Rai 3 da venerdì 31 maggio con una coppia di titoli di questo grande autore. Assolutamente, ringraziamo Enrico Ghezzi e Fuori Orario che ci offrono la possibilità di vedere in prima visione TV e in versione regionale sottotitolata due film di Godard che appartengono al periodo in cui riusciva a fare un cinema che insieme legava la saggistica e la poesia. Su Rai 3 alle 1.55 di venerdì abbiamo Questa è la mia vita, storia di Nanà commessa poi a parigina che, non sapendo come pagare l'affitto, decide di fare la prostituta. È un film che nasce da un'inchiesta giornalistica sul mondo della prostituzione, dove Godard invita a vedere quadri di questa vita, di questa prostituta, introducendoli con citazioni tratte dal Ritratto ovale di Poe, finché vinse il primo della giuria al Festival di Venezia. È un'opera assolutamente seminale, che detta i canoni a venire della Nouvelle Vague e li estremizza. Un film veramente visionario, potente, radicale. E poi Una donna sposata, storia di una giornata nella vita di Charlotte tra un marito e un amante. È la storia di un'alienazione che assume contorni decisi e definiti, in cui Godard coglie con distacco e ironia un universo borghese che ormai è assolutamente indifferente ai propri vizi e dove tutto ormai è diventato merce. E allora ricordiamo gli appuntamenti: venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno, nella notte, Fuori Orario, Rai 3, Questa è la mia vita, Una donna sposata di Jean-Luc Godard. Grazie a Giulio San Giorgio. Grazie a te Franco, e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Ebbene, bene, allora grazie agli amici di Film TV, noi siamo arrivati alla terza e conclusiva traccia misteriosa di oggi. 5.000 euro online, 6.000 euro, 7.000 euro, 8.000 euro, 9.000 al telefono, 10.000 il signore, 11.000 euro online, 12.000, 13.000 online, 14.000, 15.000, questo non va bene per il mio collo, a 15.000 euro. E allora, le atmosfere di un'asta, di che film si tratta? La Rosa Purpurea @radio24.it, scriveteci il titolo e il vostro nome, cognome e indirizzo per provare a vincere una copia in Blu-ray di questo film per il sabato e per la domenica. 7 giorni fa avevamo giocato con questo grande classico. Deve mettersi in testa che Ghetta è sotto un'enorme pressione. Deve considerare qual è la sua situazione. Ha questo posto da mandare avanti. È responsabile di qualunque cosa accade qui, di tutta questa gente, ha un sacco di cose di cui preoccuparsi. E allora si trattava di Schindler's List, arrivato in Blu-ray, e noi lo regaliamo ai primi, ai più bravi e più veloci dei nostri ascoltatori che hanno risposto: Diego Allega di Ciampino, Roma, e Stefano Di Bernardo di Gemona, Udine. Saranno loro a ricevere la copia in Blu-ray di Schindler's List, della quale parliamo con il nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Sì, da Universal una super superba edizione in Blu-ray, con il film per la prima volta in alta definizione, proprio in occasione del suo 20° anniversario, un incredibile livello di qualità, capace di riportare la memoria alla visione nella sala cinema, traccia audio DTS in italiano di qualità molto buona, superlativa, l'originale DTS ad alta risoluzione in inglese. Tutti gli extra si trovano all'interno di un DVD, tra l'altro extra già pubblicati in passato, con un documentario di 67 minuti sulla realizzazione, la presentazione di un'interessante piattaforma di approfondimento e apprendimento della storia per studenti, la presentazione della Shoah Foundation fondata da Steven Spielberg, inclusa nella confezione Blu-ray anche la copia digitale del film, mentre ricordo che è disponibile un'edizione per collezionisti che include libro, cartoline e poster dell'opera. E allora, questo era Schindler's List, il game della scorsa settimana. Un paio di consigli invece dalle novità in un video, cominciando con una commedia recente, grandi attori in Il matrimonio che vorrei. Ha convinto Arnold? No, io, insomma, ho pagato io per questo, con i miei risparmi, tutto quello che avevo. Quindi è molto importante per lei? Mm-hmm. Mi dica perché? Per tornare ad essere finalmente una coppia. Una coppia? Beh. Se non siamo una coppia noi, non vedo chi lo sia. Arnold, lasci parlare Kay, lei potrà replicare dopo. Sì, d'accordo, va bene. Una coppia. Dopo 35 anni di matrimonio, Kay e Arnold sono diventati praticamente due estranei. Kay in particolare soffre per le mancate attenzioni da parte di Arnold. L'assenza di complicità e gesti affettuosi portano Kay a decidere di trascinare il marito da un famoso terapeuta pur di tentare di salvare il matrimonio forse giunto a naturale conclusione. Riuscita commedia romantica con due strepitosi interpreti come Meryl Streep e Tommy Lee Jones, che da Bing Media è arrivata non solo in DVD ma soprattutto in Blu-ray, quest'ultimo di eccellente qualità, doppia traccia audio DTS ad alta risoluzione italiano e inglese, sono entrambi di resa superiore al DVD. Come extra segnalo un approfondimento testuale sul film presente all'interno della confezione, mentre è possibile seguire come supplemento audiovisivo la creazione del set del matrimonio cosiddetto perfetto. E allora, questo per quel che concerne Il matrimonio che vorrei. Invece, fantascienza, anni 80, con un regista come Tobe Hooper in Space Vampires. Abbiamo ordine di non far uscire dalla città nessuno e per nessun motivo. Ci risulta che anche il primo ministro è morto. Siamo noi militari che diamo ordini. Non so se mi sono spiegato, signori. Che notizie ci sono della cometa? Cometa? Parlo della cometa di Halley. Oh! Non sono un astronomo, signori, ma so che ora è esattamente su Londra. All'interno della cometa di Halley, una misteriosa astronave rivela i corpi di tre umanoidi perfettamente conservati, recuperati da astronauti della NASA, che però periscono quasi tutti al rientro dello Space Shuttle sulla Terra. Segregati all'interno di un laboratorio, i tre corpi inermi riprenderanno vita, dando luogo a un'invasione da parte di creature capaci di risucchiare la forza vitale dai corpi umani. E da Tobe Hooper, regista del primo Texas Chainsaw Massacre, questo divertente fanta-horror classe 1985 basato su una sceneggiatura infarcita di elementi improbabili ma con i grandissimi effetti ottico-visivi di un maestro come John Dykstra. Da Pulp Video, l'edizione Blu-ray superiore al DVD, anche se segnalo comunque che la risoluzione del film è inferiore rispetto ai comuni Blu-ray, due tracce Dolby Digital, 2,6 canali in italiano di sufficiente resa, una terza, sempre due canali in inglese, comunque la migliore. Ricordo che il film è presentato nella versione integrale, mai vista al cinema, per cui alcune sequenze risultano comunque in lingua originale. Come extra, una galleria foto e poster, ricordo che negli Stati Uniti è disponibile un'edizione decisamente più ricca e completa. E allora questo era Space Vampires, grazie a Claudio Pofi, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. E noi siamo arrivati alla fine della nostra ora di cinema. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace e unitevi al nostro gruppone. Poi in settimana ci fate sapere cosa ne pensate dei film che avete visto nel weekend. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Paolo Corleoni in regia. Appuntamento la prossima settimana. Un saluto da Franco D'Assisi.